Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 435. Da una notizia che ci porta in Cambogia, dove una coppia di youtuber 2 anni fa ha lanciato il canale Natural Life TV, video nei quali insegnavano, con il classico format videoclip tutorial sullo stile del noto Primitive Technology, come sopravvivere immersi nella natura, lontani dai lussi delle civiltà, procacciandosi il cibo da soli. La coppia adesso dovrà salvarsi da qualcos'altro, cioè un mare di accuse. In quanto i video mostravano la coppia impegnata a catturare, spesso fingendo, animali selvatici come rane, uccelli di varie specie, serpenti, squali e tanti altri ancora. Animali però, come hanno segnalato diversi utenti alle autorità, protetti e soggetti a divieto di caccia, perché a rischio estinzione, come nel caso di alcune lucertole, volatili o addirittura il gatto pescatore, che è stato cotto e mangiato. L'attività della coppia, che su YouTube ha totalizzato quasi 4 milioni di visualizzazioni e una community di oltre 30.000 iscritti, è stata quindi segnalata al Ministero dell'Ambiente, che è intervenuto cercando di rintracciare i due. Vi state chiedendo se anche l'Isola dei Famosi rientra in questo filone? In parte sì, in quanto al netto del voyeurismo e della adorazione delle celebrità, l'obiettivo dichiarato è quello di mettere alla prova le persone chiedendo loro di sopravvivere in un'isola deserta, senza nessuna comodità, costruirsi un rifugio, accendere un fuoco, procurarsi il cibo. Evidentemente la civiltà tecnologica crea un disagio diffuso e le esperienze di reazione, che propongono modelli di autosufficienza e la vita in natura, hanno un'enorme presa sul pubblico. Anche la famosa dieta paleo in qualche modo rientra nel fenomeno. Parte cioè da un presupposto salutista e da una corretta critica all'esistente. La critica è rivolta all'industria alimentare, che ci induce a mangiare alimenti insani e inutili, che ci rendono sempre più grassi, deboli e malati. Ma le conclusioni mitizzano un'alimentazione ricca di carne, che peraltro invece è stata classificata come alimento potenzialmente cancerogeno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e totalmente priva di cereali, legumi, che sono messi al bando e criminalizzati sullo stesso piano dei dolci e dello zucchero. Non è, evidentemente, una dieta che privilegia l'etica. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. ambulatorio, zona quarantena, casetta autonoma per i custodi, zona lavaggio, cucine, 8 piccoli edifici climatizzati con uscite completamente libere nel giardino e telecamere per seguire in tempo reale, tramite webcam, la vita quotidiana dei fortunatissimi cani che, sfuggendo all'orrore del festival di Yulin, atterreranno fra le confortevoli braccia di Davide Acito, l'attivista italiano che per la terza volta è in partenza verso la Cina per cercare di combattere lo sterminio annuale dei cani destinati alle tavole dei ristoranti cinesi. Sono queste le caratteristiche dell'Island Dog Village, il primo rifugio tutto italiano che sorgerà, anzi che sta già sorgendo visto che i lavori sono in avanzamento, in Cina per accogliere i cani che Davide Acito e il suo Action Project Animal riusciranno a sottrarre al massacro in programma per giugno. Anche quest'anno, come ogni anno dal 2009 quando è nato, il Festival di Yulin riproporrà l'orrenda visione di centinaia e centinaia di cani ammassati in gabbie minuscole e arrugginite in vendita in un mercato a cui si rivolgono soprattutto proprietari di ristoranti, dove ancora la carne di cane viene cucinata come una prelibatezza irrinunciabile. Bisogna però precisare che la modalità con cui questi cani vengono sottratti al massacro è l'acquisto. Nel 2017 Davide Acito è riuscito a mettere in salvo 400 cani e 100 gatti grazie alle donazioni che molte persone italiane gli hanno inviato. Non sappiamo se questo metodo sia etico, sostenibile, soprattutto sensato, laddove poi mantenere questi cani salvati impedirà di poterne salvare altri, quindi un bel dilemma. Va d'altra parte ricordato che anche Oskar Schindler, grazie al suo denaro, corruppe e comprò la possibilità di salvare 1200 vite di ebrei destinati ai campi di sterminio. Non vogliamo naturalmente paragonare Davide Acito ad Oskar Schindler, vorremmo concentrarci su questo dilemma. Il dilemma di coscienza che ogni animalista si trova a vivere quando c'è l'occasione di acquistare un animale destinato al macello. Sempre su questo dilemma andiamo in Norvegia, dove sono state arpionate, catturate e uccise 122 balene incinta. Un nuovo documentario appena trasmesso dalla Norwegian Public Broadcasting rileva alcuni dettagli allarmanti riguardanti la caccia norvegese alle balene. La diffusione di questo documentario dal titolo Battle of Agony, Battaglia di Agonia, ha scatenato l'indignazione fra conservazionisti e animalisti di tutti i tipi. Ciò che ha particolarmente incendiato gli animalisti è che circa il 90% delle balene arpionate sono femmine e quasi tutte sono incinte. Il capitano arpionista ha dichiarato: noi abbiamo un approccio professionale, non stiamo a pensare a queste cose, se sono incinte è segno di buona salute. La Norvegia è la prima nazione baleniera al mondo, seguita solo da Giappone e Islanda. Tuttavia ha difficoltà a trovare un mercato per la carne di balena, che è una carne altamente sovvenzionata dal governo. Il tentativo di commercializzare hamburger di balene si è in gran parte afflosciato e talvolta la carne di balena appare in menu turistici come specialità locali o A Taste of Norway, non meglio specificato. Quindi la carne di balena è venduta anche come cibo per cani. Ma esiste forse una soluzione di mercato per salvare le balene minche? E qui arriva il dilemma. I cacciatori, si dice, in un articolo che abbiamo trovato, si sono comprati il diritto di uccidere le balene e i conservazionisti potevano a loro volta pagare per salvarle. La proposta si inserisce all'interno di un sistema di gestione della pesca noto come quote di cattura. Verranno quindi stabiliti i livelli di prelievo sostenibili e agli animalisti verrebbe consentito fare offerte in concorrenza con quelle dei balenieri. Le balene acquistate dagli ambientalisti verrebbero tolte dalla quota di balene prelevabili. D'altra parte l'industria globale della carne di balena vale 31 milioni di dollari e nessuno intende rinunciare a questi profitti. Mentre c'è da dire dall'altra parte che i gruppi anticaccia alle balene come Sea Shepherd, Greenpeace e il World Wildlife Fund spendono quasi 25 milioni di dollari per fermare e ostacolare la caccia alle balene. Questo denaro, viene detto, potrebbe essere versato direttamente per acquistare le balene, probabilmente con lo stesso effetto. Il futuro delle balene si trova dunque nei negoziati e non negli scontri.

vegani di M, fate schifo, che ci state mangiando. Con queste frasi che abbiamo autocensurato, 5 ragazzi hanno insultato 2 persone che stavano cenando sedute a un tavolo all'aperto del ristorante Vegan World in Viale Montenero a Milano. All'ennesimo insulto, uno dei 2 bersagli di questi epiteti si è alzato ed è stato aggredito con calci e pugni. Il più aggressivo dei 5 è un 18enne che, ironia della sorte, sta studiando per diventare cuoco. All'interrogatorio che è seguito al suo arresto ha dichiarato che era ubriaco e che voleva soltanto prendere un po' in giro i vegani. Per il cuoco 18enne sono stati convalidati gli arresti ed è anche stata disposta la misura cautelare ai domiciliari. Le persone vegane sono evidentemente minoranze e in quanto tali oggetto di discriminazioni, minacce e aggressioni. Molte persone qualunque, diventate vegane per vari motivi, si stanno rendendo conto di cosa significhi uscire dalla maggioranza. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato le 12 condanne tra 8 e 10 mesi con l'aggiunta di multe, richieste danni e pagamento spese processuali della parte civile a carico dei manifestanti animalisti che il pomeriggio del 28 aprile 2012 si staccarono dal corteo che chiedeva la chiusura dell'allevamento di cani Beagle Green Hill di Montichiari nel Bresciano, cani destinati alla sperimentazione scientifica, e irruppero all'interno di questo allevamento riuscendo a portare con sé, insomma, liberare centinaia di animali. L'allevamento venne poi posto sotto sequestro e chiuso definitivamente durante l'estate successiva. I suoi gestori furono condannati per maltrattamento e uccisioni di cani. I giudici potevano forse tener conto dell'esito di questo processo ai gestori di Green Hill per applicare attenuanti e sconti di pena. Noi non siamo dei giuristi, pertanto non ci possiamo azzardare su questo terreno. Da parte nostra però possiamo osservare che si poteva forse approfittare di questo processo per continuare a fare informazione sulla sperimentazione animale, sulla questione animale. Il processo invece è andato avanti abbastanza in sordina e la sentenza è passata del tutto inosservata nei media. È un segnale della debolezza del movimento animalista che ancora non si è organizzato adeguatamente e non ha deciso quali sono le sue priorità. A proposito di insulti e aggressioni, forse il gruppo sociale che più spesso diventa bersaglio di atti violenti è quello delle donne. In assoluto le donne, in particolare le donne attive per i diritti delle donne, insomma le attiviste, donne che ci mettono la faccia e il corpo. Figuriamoci che cosa non devono avere vissuto le donne attiviste e vegetariane o vegane nei secoli passati. È di loro che parla Le figlie di Eva, di Aida Vittoria Eltanin, già autrice di altri libri come La dieta di Eva, La salute di Eva, In frutta veritas. Abbiamo intervistato Aida una settimana fa quando era in trasferta a Firenze. Sentiamo l'intervista. Ciao a tutti. Beh, le iniziali del mio nome, Aida Vittoria Eltanin, fanno Evia, al contrario, e quindi Eva. E allora nei miei titoli spesso uso la parola Eva, ma in realtà non è solo perché sono le iniziali del mio nome, ma perché Eva è fondamentalmente stata la prima donna vegetariana della storia, per quanto la storia biblica, ovviamente. E quindi queste simbolicamente sono le sue figlie, delle donne famose vegetariane della storia che hanno fatto la storia. Perché un attivista animalista ha sentito il bisogno di scrivere la storia di 13 personaggi femminili? A me è sempre interessato l'argomento del mondo femminile, del mondo femminista, delle lotte delle donne, la letteratura femminile, e stavo facendo una ricerca in realtà per tutt'altro e ho scoperto queste donne vegetariane, e prima era una, poi due, poi tre, insomma hanno cominciato a essere un gruppo notevole, quindi ho deciso di compattarle tutte in un unico libro e riesumarle un po' dalla storia dove sono state dimenticate, anche perché queste donne hanno visto il nesso tra la lotta per aiutare gli animali e la lotta per aiutare le donne. Qual è questa intersezione tra donne e altri animali, secondo Aida Vittoria Eltanin? Allora, diversa da oggi, perché un tempo le donne non avevano grande voce e anche gli animali non avevano voce, non hanno ancora oggi voce, quindi le donne erano completamente sottomesse, anche gli animali, quindi le donne vittoriane, che sopra la maggior parte delle donne di cui parlo sono un po' di quel periodo inglese, quindi tardo 800, ma anche i primi del 1900, durante la lotta per l'emancipazione, per ottenere il voto, per ottenere il diritto di divorziare, di avere controllo sul proprio corpo, eccetera eccetera, in questo periodo per loro era ancora più facile che per noi vedere quanto le donne fossero tenute in bassa considerazione proprio come gli animali, quindi liberare uno, liberare l'altro, la lotta era simile. E ti cito da una di queste donne, che è Constance Lytton, che mentre passeggiava un giorno per una cittadina aveva visto una pecora sfuggita al macello. Veniva circondata da molti uomini che cercavano ovviamente di rimetterla nel carretto per andare al macello, era smarrita, era allo stremo delle forze. Gli uomini si prendevano gioco di lei senza pietà, senza, dice, sentimento umano. La pecora era distrutta, non ci vedeva bene, barcollava. E con una paura crescente si mise a correre sempre più goffamente. Alla fine fu braccata, si dimenò per liberarsi, finché uno degli uomini le diede un grande schiaffo sul muso. Constance Lytton disse che non sapeva dove aveva trovato il coraggio, ma non riuscì a restare zitta. Era andata da quegli uomini, gli aveva detto di vergognarsi per come avevano trattato questa povera bestiola, e disse: vedere questa pecora sembrò rivelarmi per la prima volta la posizione delle donne in tutto il mondo. Mi resi conto quanto spesso le donne siano tenute nel disprezzo, come esseri al di fuori della dignità umana, escluse, confinate, ridicolizzate, insultate a causa di condizioni per le quali loro non sono responsabili. Perché ovviamente, non potendo avere a che fare con le leggi, decidere, votare al tempo, non avevano deciso come doveva essere la società, eppure venivano prese, trattate male per colpa di norme sociali che non avevano avuto alcuna voce in capitolo nel creare. Quindi lei dice: gli animali sono nella stessa condizione, e ancora oggi, per quanto le donne si siano evolute e abbiano ottenuto molti diritti, ancora si può vedere benissimo questo nesso tra la violenza che viene fatta sulle donne, l'abuso dei loro corpi e quello che viene fatto agli animali. Come si può fare per acquistare questo libro? Al momento è in vendita solo su Amazon, quindi sia in cartaceo che in versione ebook digitale. Un'altra cosa che ci sembra giusto aggiungere: ieri abbiamo ospitato Aida Vittoria Eltanin a Firenze, che ha fatto una presentazione bellissima di questo libro, ha presentato molte di queste 13 eroine storiche che dovremmo studiare a scuola, ma che forse non è un caso se invece studiamo solo personaggi maschili, eroi al maschile. Ha fatto questa presentazione con un costume ottocentesco, e questo costume durante il corso di questa esposizione viene tolto, e alla fine Aida si libera del vestito, e liberandosi del vestito naturalmente ci sta dicendo che abbiamo la possibilità di liberarci dalle costrizioni a cui siamo ancora sottoposte. I femminicidi ne sono solo uno dei tanti segnali. Invitiamo quindi coloro che ci ascoltano a organizzare nella propria città un incontro di presentazione con Aida Vittoria Eltanin per far conoscere questo libro e le storie che contiene. Per invitare Aida si può prendere contatto con lei, vogliamo dire come? Sì, ho un sito Vegan in Italy, vegan-in-italy.com, oppure più facile via email aida.eltanin@gmail.com. E naturalmente Aida Vittoria Eltanin è anche su Facebook, ha una pagina molto seguita, quindi vi invito a cercarla e a invitarla nelle vostre città per la presentazione del suo libro, che non è solo interessante ma è anche scenografica e avvincente. Grazie. Grazie a voi. La rubrica di cucina Il pasto gentile, il tosco vegan chef Gabriele Palloni dedica la ricetta della settimana proprio alle donne. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. 26 maggio scorso ho avuto il piacere di preparare la cena organizzata da Restiamo Animali, che ha seguito l'incontro con Aida Vittoria Eltanin a Firenze. Fedele al tema della serata, il menù era ispirato e dedicato a tutte le donne con le quali collaboro da tempo. Uno dei piatti, in verità quello che all'apparenza aveva sollevato più dubbi, si è rivelato il più apprezzato. Si tratta dei chicchi di Rossella, ovvero un risotto ai petali di rosa e pistacchi. Gli ingredienti per 4 persone sono 320 g di riso carnaroli, 4 boccioli di rosa eduli di colore diverso, una cipolla bionda, un bicchiere di vino bianco, un cucchiaio di granella di pistacchi, olio extravergine di oliva, 100 ml di latte di soia non dolcificato, 50 g di barbe rosse cotte, brodo vegetale, sale e pepe. Togliete delicatamente i petali dai boccioli di rosa, conservandone alcuni per la decorazione finale, e tagliate il resto a strisce sottili. Sbucciate e tritate la cipolla, quindi mettetela in un tegame con un bicchiere di acqua e quando questa sarà evaporata, rosolate con un cucchiaio di olio extravergine. Aggiungete il riso e la metà dei petali tagliati a strisce. Fate tostare qualche minuto, quindi bagnate col vino bianco e lasciate evaporare. Aggiustate di sale e pepe e portate a cottura il riso con brodo vegetale. Nel frattempo frullate le barbe rosse assieme al latte di soia e a 100 g di olio extravergine. Quando il riso sarà cotto, aggiungete i rimanenti petali tagliati e mantecate con il mix di barbe rosse e olio extravergine. Servitelo ben cremoso, guarnendo con la granella di pistacchio e qualche petalo. Please hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the Lord. Please hurt me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, I cried, Siamo in chiusura, vi saluta la nostra redazione al completo composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 436 della nostra trasmissione è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.